l'uso del ferro e l'uso del pane rimasero un tempo bilanciati, ma niente, tutto questo sorreggeva e l'uomo a suo piacere li ha spostati. Il più forte fece più lavoro, il più bravo fece meglio il suo, il più ingegnoso ne faceva poco, il previdente ne fece tesoro. Il contadino aveva grano e poco ferro, il fabbro aveva ferro e poco grano, e col lavoro uguale piano piano, a lui toccò l'avere, a te il lamento, a lui toccò il potere, a te lo stento. Il contadino aveva grano e poco ferro, il fabbro aveva ferro e poco grano, e col lavoro uguale piano piano, a lui toccò l'avere, a te il lamento, a lui toccò il potere, a te lo stento.